Lei chi è? Sono Jarvis. Che cosa fa? Sono il maggiordomo. Capisco, sì, sì. Mi sa dire dove si trovava la notte del rapimento? Dormivo nella mia stanza, signore. Non dormiva nella sua stanza. Lo può dimostrare? No. Prenda nota, sergente. Dica al personale di riunirsi in salotto lì. Interrogherò fra qualche minuto. Ricevuto. Come ha detto che si chiama? Jarvis, signore. Jarvis, ricordo. Mi farebbe la cortesia di farmi visitare la casa? Certo, signore. Questa è una porta. Sì, signore, questa è una porta. Sì, lo so, è un controllo. Non è chiusa a chiave, signore. Resta lì dove sei. Preferisco sbrigarmela da solo. C'è nessuno nascosto nel buio? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Se la vedo ce l'ho davanti, la faccia dell'assassino schifato, no? Che aveva soltanto voglia di mettermi le mani al collo, probabilmente. Io non riuscii a guardarlo in faccia e a capochino, soffocando per non ridere, bisbigliai: ho il raffreddore. Ah, andate, disse, andate. Storie di fazzoletti e di tentativi fortunatamente falliti in una puntata tutta dedicata al vizio della superbia. La puntata di oggi è una puntata che è dedicata a un vizio particolare, come sempre succede. Ogni puntata di Linee d'Ombra ha storie che raccontano di uno dei 7 ormai più vizi capitali. Devo dire che oltre ai 7 ne abbiamo aggiunti almeno 4-5 e ne arriveranno. Nelle prossime settimane abbiamo scoperto che possiamo davvero moltiplicare i vizi e che in qualche modo raccontano chi siamo oggi rispetto a chi eravamo un tempo. Ma dicevo, puntata dedicata alla superbia, quella di oggi, alle storie dedicate alla superbia. C'è ogni tanto un filone che attraversa le nostre puntate. Il filone di oggi, senza ombra di dubbio, è il filone delle forze dell'ordine e lo attraversa da capo a capo, nel senso che partiamo con una piccola storia, che sono quelle storie che sono probabilmente capitate a tutte, soprattutto quando si è giovani. Quando si è giovani capita di essere fermati a un posto di blocco e la sensazione è che i carabinieri o gli agenti di polizia che ci troviamo di fronte ci guardino un pochettino dall'alto in basso, no? Per cui un sacco di volte abbiamo avuto la sensazione di essere davanti quasi a un professore o a un genitore un pochettino più cattivo, autoritario, no? Che arriva tanto così da darti lo scappellotto perché hai superato il limite di velocità, oppure perché hai, come in questo caso, nella storia che vi racconteremo di David, diciamo, porti con te il sospetto di avere in automobile qualcosa che non dovresti avere, quindi dai, forza, tirala fuori. Insomma, partiamo da una storia come questa, che in qualche modo accenna a quel pizzico di superbia che ogni tanto corre nei toni di voce delle forze dell'ordine che ti fermano a un posto di blocco, per andare dall'altra parte, per andare a raccontare come le forze dell'ordine si trovino spesso di fronte alla estrema, terribile, drammatica superbia delle organizzazioni criminali. Parliamo delle più terribili organizzazioni criminali, perché oggi, oltre a questa piccola storiella di David, ne raccontiamo un'altra che tra l'altro accadeva proprio, non accadeva, perché questa è diciamo la storia che vi raccontiamo, la storia di qualcosa che non accade, una cosa che non accadeva il 23 di gennaio del 1994, quindi parliamo esattamente di 26 anni fa oggi. È una storia che doveva accadere a Roma, doveva accadere allo Stadio Olimpico e fortunatamente non è accaduto. Usiamo questa giornata, questa ricorrenza per raccontare questa storia, che è una storia che si ricorda molto poco, fortunatamente si ricorda molto poco, perché ha a che fare, come vi dicevo, con un attentato che non è andato in porto, fortunatamente, ma la storia è molto più complessa di così, e ne approfitteremo di questa puntata e di questa ricorrenza per citare le parole di un uomo che per tutta la vita, insieme a un suo collega, amico, fraterno, fino alla morte, ahimè, si è trovato di fronte alla superbia di un'organizzazione criminale che è quella per eccellenza, insomma, è Cosa Nostra, e sto parlando di Paolo Borsellino. Citeremo alcune delle sue frasi al discorso di commiato e di saluto al funerale di Giovanni Falcone. È un discorso che probabilmente queste parole dovrebbero essere insegnate a scuola, e noi abbiamo colto questa occasione per citarle nuovamente. nuovamente. È un discorso che lui aveva tenuto a Palermo il 23 di giugno del 92, poche settimane, pochi giorni prima di essere ucciso anche lui da Cosa Nostra, come il suo collega Giovanni Falcone. Ma ci arriviamo con calma, come al solito raccontiamo storie, come al solito ne raccontiamo una alla volta, e quindi partiamo dalla prima. Benvenuti a Linee d'Ombra. Quella sera la pioggerella era così fine che ne avvertivi la presenza solo guardandola moltiplicarsi sul parabrezza. E il vento spettinava i capelli di chi li aveva appena sistemati. Era sabato sera. Finalmente, dopo una lunga settimana di lavoro, un sabato sera di metà ottobre, quando è ancora vivo il ricordo dell'estate, ma la realtà non lascia più spazio ai ripensamenti o ai cambiamenti di rotta. Quarrata, a metà degli anni 90, era un fiorente polo dell'artigianato in provincia di Pistoia, piena di mobilifici, mostre mercato e pullulante di giovani coppie in cerca di arredamento di qualità. È lì che vivevo, ed è lì che era ubicato il bar in cui ero solito ritrovarmi con gli amici. Anche quel sabato sera mi diressi lì. La scelta del bar e dei locali da frequentare era molto importante, prima dell'avvento di internet e dei social. Fornivano un punto di riferimento per gli altri e per me. Facevano parte del mio bagaglio culturale, una sorta di biglietto da visita da presentare. Il mio bar non era quello dei fighetti, ma nemmeno il peggior bar di Caracas, e i locali che frequentavo erano le grandi discoteche del movimento techno progressive toscano. Quella sera toccava a me prendere l'auto, la mia Fiat 145 color guardia di finanza. C'era sempre un pizzico di tensione in più quando accadeva. Tra l'altro io quel giorno risentii oltremodo della pioggia e del cambiamento di stagione. Avevo già un principio di raffreddore e la prima sigaretta della sera mi infiammò la gola. Ma alle 11 era prevista la partenza verso Ponsacco Pisa, destinazione Insomnia Disco Acropoli d'Italia. Un locale molto trasgressivo che frequentavamo spesso, distante un'oretta di macchina, senza correre. Quando prendevo la macchina io c'era sempre un po' di tensione, perché ovviamente si faceva mattina, perché ovviamente i miei compagni di viaggio erano piuttosto cacciaroni, e perché appunto potevano accadere episodi come quello che è successo, insomma. La mia compagnia era composta quasi all'unanimità da operai e artigiani, giovani rampanti divertenti e non troppo banali. Ma quella sera tutti, per un motivo o per l'altro, declinarono l'appuntamento. Solo Andrea era al bar, in forma e convinto di andare ad ogni costo. Io, consigliato dal raffreddore che sentivo aumentare a ogni spiffero, mi accodai al fronte del no, ma Andrea fu irremovibile e alla fine mi lasciai convincere. Partimmo io e lui, senza riluttanza. Io ero perfettamente agghindato per l'occasione, pantaloni di velluto a coste blu elettrico, maglietta azzurra in cotone con sopra disegnato uno smile giallo, un emoticon direbbero adesso, che occupava tutta la zona del plesso solare. Scarpe da ginnastica con la zeppa, vere e proprie misteri della moda, e un paio di occhiali simili a quelli di un aviatore dei primi del Novecento, solo con la montatura di plastica argentata che avrei sfoggiato in mezzo alla pista. Non ricordo come fosse vestito Andrea, ma il suo outfit sarà stato sicuramente attinente al dress code. Ovviamente nessuno dei due aveva il giubbotto. 5.000 lire per il guardaroba erano un insulto alla miseria, e se lasci i panni in macchina è noto a tutti nell'ambiente che te li rubano. In auto l'autoradio era al limite per prepararsi alla serata. Andrea cercava di chiacchierare sotto la musica e fumava come un turco. Io sentivo l'umidità della notte che, mischiandosi al fumo e alla ventola del riscaldamento, creava un mix micidiale di bacilli che attaccavano il mio naso e la gola già precari. Una massa di muco enorme si stava formando nella cavità e cercava disperatamente di uscire. Quello che non usciva dal naso cercava rifugio in gola. Insomma, tossivo e gocciolavo disperatamente. Cercai, mentre guidavo, un pacchetto di fazzoletti, o un volantino, uno scontrino, un panno di daino, insomma qualcosa per soffiarmi il naso. Niente. Chiesi ad Andrea, niente. Trovai finalmente nel cruscotto un fazzoletto di stoffa, di quelli che la mamma da piccolino mi metteva nei pantaloni prima di andare a scuola e che noi chiamavamo pezzola. Non so come finì, ma mi salvò dall'annegare. Per tutto il viaggio riempii il povero fazzoletto di cose orribili che scappavano dal naso e dalla bocca producendo rumori terribili e starnuti devastanti. Quasi, quasi. Dimmelo, quasi, quasi. Ti ho tradito e mi sono uscita dalla superstrada, la pezzola era diventata una disgustosa pallottola appiccicosa. Ma eravamo pronti e affrontammo l'ultimo drizzone prima del parcheggio della discoteca. Ma d'improvviso, quasi uscendo dai cespugli, un poliziotto si lanciò in mezzo alla strada agitando la paletta d'ordinanza e invitandoci ad accostare. Ci infilammo in uno spiazzo sterrato accanto alla strada e subito due poliziotti ci puntarono le torce dal vetro e inquadrarono il fumo che galleggiava. Il mio naso tumefatto dal raffreddore e la faccia perplessa di Andrea. Ci chiesero la patente e il libretto che consegnai dal vetro con un sorriso, ma a loro non interessavano i documenti. Ci accorgiamo subito che gli inquirenti cercavano droga e sembravano convinti che noi ce l'avessimo. Oh, sarei un ipocrita se dicessi che in quei locali non giravano pasticche o altro, ma noi andavamo lì per divertirci, per conoscere ragazze, tipi assurdi, soprattutto per uscire da quegli schemi e da quelle consuetudini a cui eravamo indissolubilmente incatenati per tutta la settimana. Solo lì, sotto le casse, potevamo finalmente dimenticare quello che ci presentava il quotidiano ed essere il personaggio che avremmo voluto senza dover giustificare il lavoro, il portafoglio o la provenienza, almeno fino alla fine della notte. Quindi non avevamo droghe ed eravamo tranquilli. Ma i carabinieri ci fecero scendere, ci intimarono di togliere tutti gli oggetti dalle tasche e di appoggiarli in una scatola che uno dei due carabinieri sistemò lì sul cofano. E così facemmo in silenzio. Portafoglio, gomme, sigarette, le solite cose. Io lasciai in disparte, vergognandomi un poco, la pezzola appallottolata e loro cominciarono a frugare attentamente. Noi non eravamo preoccupati per quello che stava succedendo, perché prendevamo tutto molto alla leggera. Poi eravamo tranquilli e pensavamo no, non ci potranno mai rovinare il sabato sera alla fine, e era soltanto un altro episodio da raccontare al bar, ecco. Uno controllava i nostri poveri oggetti, l'altro con la torcia perquisiva la macchina. Quello che controllava il mio portafoglio mi sembrò di intuire che fosse il più alto in grado, e a un certo punto si mise davanti a noi, che chiacchieravamo del più e del meno, e ci disse, proprio come nel film di Thomas Millian: ragazzi, se avete la roba è meglio che la tirate fuori prima che la troviamo noi, puntandoci il dito indice con fare minaccioso. Noi ovviamente negammo ogni addebito, ma il carabiniere non era per niente soddisfatto. Intanto io cercavo con il respiro di placare l'ondata di muco che si riversava nelle mie narici, ma con poco successo. Così, disperato per il freddo e il protrarsi dell'attesa, a un certo punto notai che i due erano impegnati dietro la macchina e armeggiavano con la bauliera. Probabilmente stavano decidendo se estrarre o meno la ruota di scorta. Così decisi di tentare. Con passo impercettibile mi avvicinai al cofano e, con presa fulminea, agguantai la palla di stoffa e mi soffiai con sollievo il naso più e più volte. Lo strombettio del mio naso chiuso si mischiava con lo strepitio della ruota di scorta violata. Io finii di accomodarmi il naso e sentii i passi del carabiniere che veniva verso di noi. Così rimisi frettolosamente in tasca l'ammasso di muco e stoffa che avevo ulteriormente accumulato. L'unica cosa che avevano trovato in macchina erano i buchi nella tappezzeria forgiati dai tanti passeggeri fumatori e distratti. Uno dei carabinieri fece per riconsegnare i nostri oggetti, ma il capo non si era ancora rassegnato e quando si mise di nuovo davanti a noi notò un gonfiore ergersi dai miei pantaloni blu elettrico. Quindi, con malcelata eccitazione, esclamò: «Ah ah!» E prima che potessi fermarlo in qualche modo, infilò la sua mano nella mia tasca contaminata e strinse. Il rumore che si udì mi fece trasalire. Fu il suono che può percepire soltanto chi ha calpestato per sbaglio una lumaca. Subito dopo, esclamò con malcelato sdegno: «Ugh!» Mi guardò con l'espressione dell'assassino. Io non riuscii a guardarlo in faccia e a capochino, soffocando per non ridere, bisbigliai: «Ho il raffreddore». «Andate», disse. «Andate», ripeté. E prima che dovesse ripeterlo di nuovo eravamo già in macchina, senza guardarci, fino a distanza di sicurezza. Poi andammo a ballare, ridendo come cretini. It's called a freak. with me. Oh, what a joy. Just come on down to the fifth floor. Come vi dicevo in apertura, in questa storia quella della superbia è veramente un piccolo pretesto, no? Perché quella postura quasi che in alcune occasioni le forze dell'ordine hanno quando ti fermano, e soprattutto quando sei un ragazzino e quando magari hai addosso una t-shirt con uno smile giallo sul plesso solare. Pronto David, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Matteo. Come stai? Dai. Bene, bene, sta posta. A parte più o meno il raffreddore come quella sera. Ancora? Non sarà un caso, ma... No, probabilmente no. Senti, innanzitutto, David o David? David, ok. Senti, sì. quanti anni avevi, David, in quell'epoca? Avevo 20 anni precisi. E cosa facevi? Cosa facevi nella vita? E lavoravo in una cartotecnica, lavoravo la carta. Ok, e stiamo parlando del Pistoiese, dico male? Sì, del Pistoiese. Quarrata è un paese, un comune della provincia di Pistoia. Vivi ancora a Quarrata? No, adesso sto a Prato. Ok, senti, che lavoro fai adesso invece, Davide? Adesso gestisco una gastronomia insieme alla mia compagna. Ah, quindi proprio, diciamo, cambiato genere. Dalla carta al cibo. Esatto. Senti, la prima cosa che mi è venuta in mente era voler capire esattamente che tipo di discoteca era quella che frequentavate. Mi ripeti il nome per correttezza? Insomnia. Insomnia. Disco Acropoli d'Italia, per essere precisi. Ah, quindi è tutto il nome, ho detto giusto, cioè Insomnia Disco Acropoli d'Italia. Cioè Paolo Corleone, esatto. Di là che annuisce perché probabilmente lo conosce. Ah, mi dice sì, che era una delle famosa. Più famose, ok. Sì, Ma ed era particolarmente trasgressiva? Sì, abbastanza. Diciamo che in quegli anni, specialmente in Toscana, c'era diverse discoteche dove venivano da tutta Italia, e proprio per ascoltare certi DJ, certa musica, era una specie di tribù, insomma. E quindi il tuo modo di trasgredire era mettere una t-shirt con lo smile davanti? Sì, più o meno sì. O i pantaloni di velluto azzurro acceso a costine, sì, esatto. Purtroppo quella roba è rimasta tutta nell'armadio di mamma quando mi sono trasferito, e credo che mamma abbia fatto pulizia. Beh, ringraziamo mamma, ringraziamo mamma per averci liberato. Per avercene liberato. Senti, tu che ricordo hai di quegli anni? Perché sono anni, io non ho mai frequentato una discoteca come quella, però erano anni in cui effettivamente si spostavano le masse per raggiungere o la Riviera Romagnola o delle, mi ricordo che anche in Umbria c'era una discoteca che si chiamava The Red Zone, credo che fosse, in cui succedevano delle cose che da fuori sembravano terribili, poi invece in realtà, insomma, al di là, no, tu dici sì, certo, giravano alcune droghe che erano soprattutto le droghe di quell'epoca, pastiglie, però poi non erano luoghi, diciamo, travolgenti da un punto di vista della trasgressione. No, non erano era una sorta di entrare in un mondo diverso, ecco. Ti manca, dalla quotidianità. Quell'epoca lì e quel mondo lì? Allora, più che mancarmi, me la ricordo molto piacere, ecco. Io so che a volte fanno ancora delle serate revival e vedo su Facebook la faccia dei DJ di allora, che con capelli bianchi, però no, non ci andrei più, ecco. Però. David, ti ringrazio molto, ti lascio tornare al tuo lavoro. Grazie per la storia, per il tuo tono e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, è stato un piacere. Ciao, grazie mille. E ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E ora, come vi dicevo in apertura, andiamo dall'altra parte dello specchio che racconta storie di superbia, perché raccontiamo quella superbia vera, quella che convince alcune persone di essere, diciamo, non so se migliori di altre, ma quantomeno di avere la possibilità di gestirne la vita e la morte. Stiamo parlando delle organizzazioni criminali, nella fattispecie di Cosa Nostra. Raccontiamo una storia che risale esattamente a 26 anni fa, oggi. È chiaro che quando organizzarono quello che organizzarono, loro volevano una strage definitiva, quell'ultima strage dove affermarsi in una sorta di braccio di ferro con lo Stato, che accennava ad affondare ormai definitivamente. Era una reazione, era un urlo, e cercava di lanciare del caos all'interno dell'ordine che finalmente stava tornando. Cosa Nostra era sicura che quel giorno lì, il 23 di gennaio del 94, l'autobomba presso lo Stadio Olimpico avrebbe fatto il suo dovere. In questa puntata, appunto, dedicata alla Superbia, la seconda storia di oggi è dedicata ad un fatto avvenuto esattamente 26 anni fa che avrebbe potuto cambiare di molto il futuro di questo paese. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Quella domenica d'inverno si giocava Roma-Udinese e la mafia non voleva colpire tanto i tifosi. Voleva colpire i carabinieri in servizio, tanti quel pomeriggio. Farne una carneficina per colpire in senso letterale ma anche simbolico chi si era impegnato e continuava ad impegnarsi per e con lo Stato. L'attentato all'Olimpico non funzionò. Il telecomando ebbe un problema e l'autobomba, che avrebbe dovuto azionarsi qualche minuto dopo la fine della partita, non esplose. Ci trovavamo sulla collinetta di Monte Mario, racconta il pentito Spatuzza. Benigno provò a dare impulso con il telecomando, ma non successe nulla. Intanto i carabinieri si stavano allontanando. A quel punto dissero di lasciar stare e l'attentato era fallito. Salimmo in auto e tornammo a Palermo. Fine. Ci sono voluti in realtà molti anni per ricostruire il mancato attentato allo stadio di Roma e il quadro finale, i pezzi mancanti della tragedia più che sfiorata. Si sono ricomposti solo qualche anno fa, nell'ambito del processo a Dell'Utri, accusato per concorso esterno in associazione mafiosa. Grazie alle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza furono raccolti tutti i dettagli della pianificazione della strage. L'attentato si doveva compiere a Roma, confessò Spatuzza, perché con quello gli volevamo dare il colpo di grazia. La base logistica, diciamo, era Torvaianica. Stabilite le coordinate, quella domenica fu fatto tutto affinché l'attentato si portasse a compimento. Grazie a Dio il telecomando non funzionò. La cosa era mostruosa perché a quel punto divergeva dalla direttiva di fare una strage di almeno 100 e passa carabinieri. Solo che col dispositivo che tardava a funzionare cominciarono ad uscire anche molti tifosi che diluivano il passaggio e il numero degli uomini dell'arma. A quel punto fu dato ordine a Spatuzza e soci di rinunciare all'esplosione. La procedura utilizzata per l'attentato a Via D'Amelio, aggiunge Spatuzza, era stata riproposta anche per quello all'Olimpico. Il sabato rubammo un paio di targhe. Il furto fu datato 22 gennaio e quindi era la domenica del 24. In aggiunta confessò inoltre che colpire il rito dello stadio alla domenica non era la priorità di Cosa Nostra, che voleva in realtà punire i carabinieri. Una gara di Serie A non offriva una concentrazione notevole per una pena cosiddetta esemplare. In Viale dei Gladiatori doveva esplodere una lanciatema con 120 kg di tritolo. Quando però il funzionamento dell'autobomba andò a vuoto, il veicolo fu fatto sparire e l'esplosivo ritrovato nascosto sottoterra nel 1994 a Capena, località in provincia di Roma, dove un altro pentito, Antonio Scarano, l'uomo di Cosa Nostra, attivo nella capitale e nel centro Italia, aveva affittato una casa. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra. Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno. In eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta. Alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie, che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglierà, mi spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, fosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Nel 2002 fu fatta una ricostruzione diversa dell'episodio dal procuratore antimafia Piero Luigi Vigna. il giorno dell'attentato era stato individuato nel 31 ottobre del 93, quando l'Olimpico in realtà si giocò Lazio-Udinese. La strage dell'Olimpico rientrava in un elenco nero di tutta una serie di attentati mafiosi organizzati tra l'aprile del 93 e l'aprile del 94, dove furono colpite le maggiori città italiane. Da via dei Georgofili a Firenze fino a via Palestro a Milano, da San Giovanni Laterano alla chiesa del Velabro a Roma. L'intenzione era quella di rivendicare l'abolizione dell'articolo 41 bis. È stata la collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza a consentire una ricostruzione molto dettagliata degli eventi. La primigenia idea di attentato da effettuare allo Stadio Olimpico risaliva già al mese di giugno del 93, quando Scarano e Spatuzza, in occasione dell'ultima partita di campionato, avevano effettuato un sopralluogo. E poi, via via, si era sviluppata nel successivo mese di ottobre del 93, quando fu portato a Roma l'esplosivo e il mezzo da utilizzare come autobomba. Spatuzza fornì alcuni dettagli relativi alla preparazione della macchina da utilizzare come autobomba, rubata a Palermo e poi trasferita a Roma ed alterata con targhe rubate da un'altra auto di analogo modello. E raccontò agli inquirenti di tutti gli spostamenti delle persone incaricate di eseguire la strage e grazie alla sua testimonianza si è riusciti a datare meglio l'attentato fallito. Soltanto nei primi giorni del 94, nel corso di un'apposita riunione a Campo Felice di Roccella, Giuseppe Graviano comunicò a Gaspare Spatuzza e a Cosimo Lonigro che erano stati lì convocati per organizzare un attentato contro i carabinieri. Ed è in quella stessa occasione, quindi, che viene ideato e progettato l'attentato allo Stadio Olimpico di Roma e ne viene affidata l'esecuzione agli stessi Spatuzza e Lonigro. Quello che vi sto per leggere è lo stralcio autentico delle parole del pentito Carmine Spatuzza. In questo incontro ne scaturisce il progetto esecutivo che mi viene affidato. Dobbiamo recarci noi sul territorio di Roma e trovare un bel po' di carabinieri e organizzare, cioè dare anche l'impulso per la fase esecutiva di uccidere un bel po' di carabinieri. Graviano mi disse che l'attentato contro i carabinieri lo dobbiamo fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Mi dice che bene che ci portiamo dietro un bel po' di morti, così chi si deve muovere si dà una mossa. Che io ricordo, Graviano non ha mai usato il termine trattativa, ma nel linguaggio nostro, che ci appartiene, se c'è una cosa in piedi oggi, posso dire che quella cosa in piedi è la trattativa. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Ma come scusare? Vi abbiamo raccontato questa storia proprio in concomitanza del giorno in cui questo attentato non andò fortunatamente in porto, 26 anni fa. Ora sentiamo le strade in diretta e poi torniamo qui al... Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E noi, insomma, usiamo spesso, ci piace usare come pretesto alcuni spunti semplicemente per frequentare, per raccontare delle cose che ci piacciono, che hanno senso, in particolar modo hanno senso in una puntata come questa, in cui abbiamo raccontato di un tentativo fallito, di un attentato fallito messo in atto da Cosa Nostra 26 anni fa, avrebbe dovuto uccidere il più alto numero possibile di carabinieri, di forze dell'ordine presenti allo stadio olimpico durante una partita della Roma, che era nella fattispecie Roma-Udinese. Tentativo andato fallito semplicemente perché il telecomando da cui diedero l'impulso per far saltare in aria una lanciatema carica di 120 kg di tritolo non funzionò, il telecomando non mandò l'impulso, e fortunatamente tutto questo non accadde. Vi dicevo abbiamo raccontato questa storia nel giorno dell'anniversario, in questa giornata esattamente 26 anni fa, e ne approfittiamo per tornare a parlare della superbia e della follia delle organizzazioni criminali tramite le parole di uno dei più grandi che l'hanno affrontata. Sto parlando di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, esattamente il 23 di giugno del 92, nella chiesa di Sant'Ernesto a Palermo, durante la veglia per il funerale dell'amico collega Giovanni Falcone, fece un discorso straordinario. Quello che vi leggo sono alcune parti di quel discorso. Vi ricordo che era il 23 giugno del 92 e Paolo Borsellino sarebbe stato ucciso poche settimane dopo, il 19 luglio del 1992. Qui era lo scopo della sua vita, e qui si preparava ad arrivare per riuscire a cambiare qualcosa. Qui ci preparavamo ad arrivare e ci arrivavamo dopo un lungo iniziale. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte. Non poteva ignorare, e non ignorava Giovanni Falcone, l'estremo pericolo che egli correva, perché troppe vite di suoi compagni di lavoro e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che gli si imponeva. Perché non è fuggito. Perché ha accettato questa tremenda situazione. Perché mai si è turbato. Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui. Perché? Semplicemente per amore. Ricordo la felicità di Falcone quando, in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, egli mi disse: «La gente fa il tifo per noi, Paolo». Questa stagione del tifo per noi sembrò però durare poco, perché ben presto sopravvennero il fastidio e l'insofferenza al prezzo che alla lotta alla mafia, alla lotta al male, doveva essere pagato dalla cittadinanza. Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini, a una lotta d'amore che costava però a ciascuno non certo i terribili sacrifici di Falcone, ma la rinuncia a tanti piccoli o grossi vantaggi, a tante piccole o grandi comode abitudini, a tante minime o consistenti situazioni fondate sull'indifferenza, sull'omertà, sulla complicità. Qualche mese di lavoro in un ministero non può far dimenticare il suo lavoro di 10 anni. E come se lo fece? Lavorò incessantemente per rientrare in magistratura. La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio, dal sacrificio della sua donna, dal sacrificio della sua scorta. Molti cittadini, ed è la prima volta, collaborano con la giustizia. Il potere politico trova il coraggio di ammettere i suoi sbagli e cerca di correggerli almeno in parte, restituendo ai magistrati gli strumenti loro tolti con stupide scuse accademiche. Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro, occorre dare un senso alla morte di Giovanni, alla dolcissima Francesca, ai valorosi uomini della sua scorta. Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti. Abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito. Dimostrando come you masters of war, you that build the big guns, Yeah, that build the death planes. Yeah, that build all the bombs. Yeah, that hide behind walls. Yeah, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. E chiudiamo questa puntata con la nostra storia seriale che molto sta appassionando i nostri ascoltatori, e ne siamo felici. Ringraziamo Giorgio Bazzega per raccontarcela, anche per la sua accuratezza, per la sua onestà, per la sua sincerità. E l'episodio di oggi la dimostra tutta la sua sincerità, perché è vero che questa storia parla di ira, e probabilmente l'ira passa attraverso il tentativo di sfogarsi nei modi più svariati. Ce lo racconta Giorgio, attraverso l'allenamento, attraverso il desiderio di vendetta, ma anche, e qui in questo episodio in particolare lo dice chiaramente, anche attraverso l'uso di sostanze. Per via delle sostanze ho cominciato a frequentare ambienti in cui si facevano tutti. Le persone che comandavano in Barona nel giro di pochissimo tempo si sono allargate nelle discoteche e nei locali di Milano. E lì iniziamo, ma iniziamo che cazzo, la paghiamo poco, poi comunque, e lì iniziamo, e inizia non fortissimo, perché all'inizio, come per tutti, quando esci, quando vai a ballare, ti fai il destro, ti fai il... Noi usavamo tanto cocaina ecstasy, OMD, che è la stessa roba dell'ecstasy però in polvere. Perché dell'eroina io ero terrorizzato. Poi nel nostro giro lì a Milano Bene non ne girava di eroina. Però io, anche quando lei, io ero terrorizzato, perché cioè io mi ricordavo da bambino quello che andavo a scuola, che portavo dietro tutto fatto. Era successo una volta che uno avesse provato a dirmi vuoi fare una cosa di eroina, l'ero riempito di botte. Non ho neanche avuto proprio la reazione, ma distinto proprio. C'era una roba che proprio mi scuoteva, mi terrorizzava quasi. E gli acidi, perché anche quelli non li avevo mai presi, perché gli acidi avevo visto gente proprio perdere il controllo. E io non era quello che volevo, cioè io non volevo andare in giro tutto scemo, io volevo star bene. E quando inizi a farti, ed è quello che ti fotte, la cocaina e l'ecstasy, soprattutto l'ecstasy, ti fanno star bene. In quegli anni conoscevo i proprietari di quasi tutte le discoteche della città. Io tutte le sere uscivo, tutte le sere andavo a ballare, pippavo, mi facevo, tutte le sere tornavo a casa con qualcosa di diverso che racimolava in giro. Tutte le sere robe così. Poi accompagnavo una persona a raccogliere gli incassi nei vari locali. Io ero assolutamente in prima linea su sta roba, io non ho mai spacciato, ma giravo sempre con gli spacciatori che avevano la fama di avere la cocaina più buona di Milano e i clienti più denarosi. Grazie alle sostanze stavo bene. Mi partivano i freni inibitori, potevo parlare di mio papà e non sentire dolore. Al contrario, mi sentivo carico. Fino al 2004, 2003, no, 2005. Che sono la mia, me lo ricordo dalla maglietta, 2005 era la mia maglietta preferita, Summer of Love, che avevo preso l'ultima estate che ero andato a Bali, che poi dopo mi era cambiata la vita, ho iniziato a smettere, a mettermi un po' in riga, a rifare tutto, comunque sì, ma giravo, cioè ho girato veramente tanto, andavo ad Aulla, al Duplé, andavamo all'Imperiale, andavamo da tutte le parti, seguivamo, c'era l'Exo Group, poi era il periodo delle One Night, dove adesso sta un po' scemata la roba delle discoteche, ai miei tempi a discoteca cioè, c'era il DJ, adesso c'è l'influencer, ai miei tempi c'era il DJ, cioè, e poi io suonavo, perché... Cioè, anche da ragazzino mettevo anch'io i dischi e ho girato, cioè ho fatto tanta di questa vita, e tanta di questa vita a Milano tu vedi tante cose, ho visto robe pesanti, cioè ma scene anche da Far West, che non fanno entrare il fratello di uno di questi boss, questo torna col fucile e spara al buttafuori. Cioè, adesso io rido perché l'esorcizzo, cioè io a volte ci penso, grazie, sono ancora vivo. Si chiude qui anche questa puntata di Linee d'Ombra, si chiude con la storia seriale che potete riascoltare il sabato tra due giorni alle 21.30 nella sua versione short, le 5 storie della settimana tutte raccontate in mezz'ora alle 21.30 di sabato sera. Altrimenti potete ascoltarci domani in podcast come e quando volete, e potete anche mandarci la vostra storia, lineedombra@radio24.it. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani, ultimo giorno della settimana, a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!